si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Ed eccoci qua puntuali come ogni domenica alle 8 e quasi 32 minuti. Una buona giornata da Laura Bettini e buongiorno a te Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buona domenica. Buona domenica e buon indovinello, perché oggi è il giorno dell'indovinello. Bisogna trovare qual è il personaggio della settimana. Lo si fa prenotandosi prima di tutto all'824-0024 e poi deducendolo dagli indizi che via via vi daremo. Carlo, che dici? Cominciamo subito col dare il primo, no? Come sempre apriamo. Cominciamo subitissimo. È stato aiutato. Quindi il personaggio della settimana è stato aiutato. Ovviamente può essere uomo, donna, o può esserci un avvenimento, ma l'importante è che quando telefonerete saprete così spiegarci cosa è legato, qual è la notizia legata a questo personaggio. Notizia della settimana. È assolutamente necessario che sia accaduto nella settimana. Più indietro non andate a cercare, insomma, in sostanza, il personaggio che è stato aiutato. Poi c'è sempre il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666 per i vostri commenti, ma non per indovinare, no? Quindi tenete ben presente l'824-0024. Che cosa ci consigli questa settimana, Carlo? Allora, adesso vi consiglio subito, dico semplicemente un'altra cosa, come abbiamo chiesto, come stiamo chiedendo in queste settimane, continuiamo a ingaggiare i nostri ascoltatori su cose belle in tempi brutti, quindi se avete scoperto delle cose grazie a questo periodo di quarantena o grazie comunque a questo periodo di emergenza, noi siamo ben contenti di accogliere le vostre scoperte e magari di farle scoprire anche a noi, agli stessi numeri che appena dato Laura. E poi anche forse un ricordo su questo 25 aprile, questa festa della liberazione così particolare. Cosa avete fatto ieri? Come avete passato la liberazione insieme ma a distanza? E tra l'altro, a proposito di liberazione, noi oggi ci collegheremo con il Portogallo per parlare di sanità portoghese, perché a quanto pare sta reagendo molto bene a questa emergenza, ma anche là è stata festa ieri, anche là si festeggia il 25 di aprile, no? Quindi potremo magari ricordare anche questa ricorrenza. Giusto, giustissimo. Invece riguardo ai libri, ho riletto Limonov di Emmanuel Carrère, è edito a Delphi, è uscito, probabilmente lo conoscete, la maggior parte di voi già lo conoscono, è uscito ormai quasi 10 anni fa, nel senso che è stato pubblicato in Francia nel 2011, ma è la prima volta che lo leggo da quando Limonov, quello vero, quello che viene descritto nel libro, è morto il 17 marzo di quest'anno, poco più di un mese fa. Limonov è una biografia romanzata su Eduard Limonov, un teppistello nato in Ucraina, un poeta, un vagabondo, un romanziere, maggiordomo a New York, mercenario e forse criminale nelle guerre dei Balcani, fondatore del quotidiano Limonka, capo del partito nazional-bolscevico nella Russia post-comunista, carcerato più volte e si potrebbe andare avanti a lungo trovando descrizioni. È un personaggio incredibile, scomodo, esagerato in tutto, ma come Carrère ci ha abituato già diversi libri anche precedenti, come per esempio L'avversario, bellissimo, sempre edito a Delphi, è presente anche lui stesso nelle pagine come colui che sta cercando di scrivere questo libro. Carrère descrive se stesso scrittore che indaga, che incontra persone, che incontra lo stesso Limonov e soprattutto che spesso e volentieri si interroga se sia giusto o meno parlare di questo personaggio. Il libro è bellissimo, ma oggi ve lo consiglio per una cosa specifica che me ne sono reso conto nella rilettura, per come nella parte finale del libro Carrère racconta bene in maniera sintetica, chiara e comprensibile il disfacimento dell'Unione Sovietica dopo la caduta del muro e fino all'avvento di Putin, compresa l'annosa questione degli oligarchi russi. Ecco, nessuno me l'ha spiegato meglio di Carrère, il momento in cui a ogni singolo cittadino russo sono stati spediti buoni per il valore di 10.000 rubli, che corrispondeva alla quota di ognuno nell'economia del paese. Poi c'è stata l'inflazione al 2600% e quindi quasi tutti i russi hanno rivenduto in massa queste azioni, se vogliamo, le chiamo azioni tra virgolette, per l'equivalente di una bottiglia e mezza di vodka più o meno. E li hanno venduti tutti a dei furbetti che si sono così portati a casa tutte le aziende, compresi i gioielli di famiglia, quindi il petrolio, il gas. Ecco, questi sono gli oligarchi. Comunque il libro spiega anche tantissime altre cose, questo anche sui propri sogni, sul volersi realizzare, sull'interrogarsi su che tipo di vita si desidera per se stessi. Ecco, Limonov più che un si può fare, direi è un si può comprendere, e di questi tempi comprendere mi sembra sempre un'ottima cosa. Sai Carlo che quando eravamo in preparazione della puntata speciale sulla caduta del muro di Berlino, no? Ti ricordi? Tra le certo. possibilità che mi erano state prospettate c'era proprio quella di intervistare Eduard Limonov. Purtroppo la cosa non è andata in porto e purtroppo appunto come hai ricordato tu lui è morto nel marzo scorso e quindi non mi capiterà più neanche la possibilità di pensare di poterlo intervistare. Però sarebbe sicuramente stato molto interessante, mi ricordo proprio, ma ti piacerebbe intervistarlo? Dissi, ma vorrei anche vedere, insomma, non potrei dire di no a una proposta. Sarebbe stato veramente stupendo e avviso anche i nostri ascoltatori assolutamente di rispettare la pronuncia di Laura, perché lei il russo lo sa e quindi ho sicuramente sbagliato io dicendo Limonov e invece si dice Limonov. No, beh, però è giusto, visto che non si può comprendere ci mancherebbe altro. E poi hai ricordato... sarebbe stato bellissimo intervistarlo. Ed hai ricordato un altro bellissimo libro di Carrère che è sicuramente L'avversario, che è un... è veramente un tuffo da fare, ecco, se uno ha tempo è proprio bello da leggere, bello rifletterci, ma non vogliamo dire troppo, vero? Perché vogliamo che gli ascoltatori comprino questo libro e facciano questa full immersion. Dunque è tutto un altro argomento. Posso dire solo che l'avversario è più breve, quindi se volete approcciarvi a Carrère ma non avete voglia di leggere 300-400 pagine, l'avversario è il libro perfetto. Precisamente. Allora, a proposito di cose da capire e da comprendere, noi abbiamo un bellissimo ospite adesso, un signore che si è appena laureato, ma adesso ci dirà tutto lui. Buongiorno a Virgilio Giorgetti, no? Non c'è più in collegamento. Beh, intanto cominciamo, Carlo, magari ad anticipare un po' la sua storia. Questo signore che certo, adesso bellissima. Ha 90 anni, si è appena laureato e tra l'altro si è laureato in storia, parlando della sua Firenze, perché appunto lui è di Firenze, nel tempo di guerra. E un tempo che lui ha vissuto e che quindi in sostanza ha raccontato ai commissari in fase di laurea e lo ha fatto come tutti quanti in questo periodo in via telematica. Virgilio Giorgetti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Buongiorno. Tutto bene. Tutto bene, anche dallo saluto va tutto bene. Molto bene, questo è importante. Ha festeggiato la sua laurea in qualche modo, ovviamente a distanza come tutti? Diciamo che l'ho festeggiata molto male, perché stare in casa e non abbracciare nessuno è una cosa molto triste. Sì, tra l'altro appunto un bel 108. Quindi insomma sì, anche un bel risultato, sarebbe stato bello festeggiarlo insieme, però lo sta festeggiando un po' con tutta Italia in questi giorni, l'abbiamo vista sui giornali, adesso è con noi. Sì, mi fa molto piacere questo, è un momento diciamo molto felice per me. Ci racconta un po'... Non ha scelto benissimo il momento per laurearsi, nel senso che ha aspettato 90 anni e ha scelto proprio il momento del coronavirus, cioè voleva fare una festa pazzesca e invece purtroppo si è infilato proprio con questo virus. Davvero, rintanato in casa, persino la laurea svolta in una stanza qualsiasi della casa. Però ci hanno raccontato anche che c'erano tanti altri studenti collegati per assistere, tutti i suoi compagni di corso. Tutti i miei amici, sì, i miei carissimi amici che mi hanno appunto incoraggiato durante momenti difficili, perché ritornare a studiare dopo 60 anni diciamo che costa molta fatica. Però lei l'ha... E come mai ha deciso? Senta, dunque, 5 anni fa è morta mia moglie. e quindi mi sono ritrovato solo. Per combattere la solitudine ho dovuto inventare qualcosa. Cosa potevo fare? Dopo tanti anni. Giustissimo. E ho pensato, siccome la mia passione era la storia e l'archeologia anche, ho pensato di iscrivermi a un corso di storia. E l'ho trovato a Firenze, c'è un corso di storia, un dipartimento di corso di storia che è un'eccellenza, diciamo, a Firenze. Quindi ho preso la strada giusta, perché, diciamo, dopo il primo anno, che è stato un impatto terribile, ho fatto, diciamo, un percorso abbastanza bello. Direi che è stato quasi un percorso straordinario, veramente. Senta, perché l'impatto è stato terribile? Perché dopo 60 anni tornare a studiare, rimettere in movimento il cervello, non è facile. Quindi ci vuole fatica, ci vuole impegno per mettersi a riprendere tutto. Ero un analfabeta quando ho ricominciato a studiare. Addirittura. Senta, che lavoro ha fatto prima di rimettersi a studiare, prima della pensione? Ero capostazione dal 1957, poi assunto a Milano e poi a Firenze. Io sono un fiorentino, quindi ho avuto la fortuna di lavorare a Firenze, poi sono venuto in pensione e veramente sono rimasto, diciamo, sempre qua, in città. Insomma, alla fine questa decisione, il primo anno è stato difficile, gli altri sono andati meglio. Pensa di continuare? Sì, penso di continuare, sì, perché diciamo, lo studio mi fa. Ma noi volevamo che si mettesse sul mercato del lavoro. Come di continuare? Sì. Vuole studiare ancora? Adesso sì, si rinizia, però adesso si deve fare altri 30 anni. C'è una seconda quota 100, deve arrivare a quota 200. Ma manderò appunto delle richieste di lavoro a qualche società, vediamo un po'. Dunque, la sua tesi, La guerra a Firenze tra memoria e storia, leggo bene, l'8 settembre sì. 43, sì. 7 settembre 44, sì, sì. Periodo che lei ha vissuto in città? Sempre, sono stato sempre a Firenze io. E quindi ho anche diciamo, passato il periodo della guerra a Firenze e poi in un punto, diciamo, di quei giorni in cui mi trovai proprio sul fronte della guerra. Abitavo vicino all'Arno e quindi lì ci fu la linea del fronte di guerra nel primo periodo, diciamo, quando gli alleati arrivarono a Firenze e non potessero, diciamo, attraversare prima perché furono distrutti tutti i ponti. E quindi ci fu un periodo in cui, insomma, tra le bombe che cascavano, tra le bombe che passavano sotto la nostra testa e poi tra i franchi tiratori, è un continuo pericolo. Sono stati dei giorni veramente terribili. Senta, le volevo chiedere una cosa, al di là che è una storia stupenda ed è veramente molto bello sentirlo raccontato così, le volevo chiedere, è mai successo durante un esame che lei magari ha un professore giovane, ha un ragazzino di 30-40 anni, lei l'abbia corretto dicendo guardi, io c'ero, quindi non dica questa cosa? Durante un esame no. Diciamo sì, durante il periodo che ero a lezione ho fatto amicizia con tanti ragazzi e quando hanno saputo che avevo questa età e che avevo passato il periodo della guerra hanno voluto sapere un po' che gli raccontassi quello che era successo, sì, perché sono stati molto interessati. La storia dai testimoni. Allora, sì. Virgilio Giorgetti, allora le facciamo ancora tante congratulazioni e allora buon proseguimento di studi. Oltre grazie. Che buona giornata. Grazie anche a loro. Ci sentiamo per la prossima laurea. Alla prossima. Grazie alla mille. Prossima. Viabilità. Arrivederci. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Carlo, ieri abbiamo già introdotto un po' la questione. Fase 2 significa più persone che tornano al lavoro, ma con meno mezzi pubblici disponibili, sicuramente con più paura di salire su un mezzo pubblico e quindi il rischio che tutti prendano l'auto privata e si mettano, no, in strada per raggiungere i luoghi di lavoro. Chiaramente, certo, i piccoli vantaggi portati a casa tra le cose belle in tempi brutti, ovvero l'abbassamento dello smog, la miglioria dell'aria in questo periodo, andrebbero in fumo in brevissimo tempo. Sì, nello spazio sicuramente di una settimana torneremo come prima, se non peggio di prima. Un'alternativa sicuramente è la bici, e infatti tutte le associazioni che si occupano di bicicletta, ma nonché di mobilità urbana, stanno chiedendo a gran voce delle misure per facilitare l'uso della bicicletta. Una grandissima sostenitrice delle biciclette, ne ha fatto una ragione di vita, è sicuramente Ludovica Casellati, chiamata anche Lady Bici. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Lady Bici, no, bisogna insistere su questo fronte, ci sono già tante belle esperienze che tra l'altro lei elenca anche in tutti i suoi scritti, e quindi anche c'è la bici della felicità, ma insomma in tutte le sue occasioni lei più volte ha detto si può fare. Sì, sì, si può fare, si poteva già fare, perché diciamoci la verità, adesso parliamo della fase 2, ma già nella fase 1 chi era costretto ad andare al lavoro non avrebbe dovuto usare i mezzi pubblici. Dove è possibile, e soprattutto lì era possibile perché non c'è traffico, cioè in questi giorni c'è pochissimo traffico, quindi anche chi può aver paura di mettersi appunto con la bicicletta in mezzo alle strade poteva farlo. Adesso si può fare. E si deve fare perché innanzitutto la bici distanzia, poi diciamoci la verità, in bicicletta mettiamo in moto il nostro corpo, siamo stati chiusi in casa, se adesso possiamo uscire per andare a lavorare, una ripresa un po' più dolce. Sì, una ripresa dolce, in lentezza, ma non è detto, perché altrimenti, come dicevate, rischiamo davvero di non aver imparato nulla. No, oggi, in questi giorni si sprecano frasi del tipo ne usciremo migliori. Da questo punto di vista, se riapriranno le ZTL, le ARC e consentiranno alle auto di andare ovunque, noi ci ritroveremo con un lavoratore ogni automobile. Quindi inquinamento, traffico, cioè avremo delle città congestionate. Allora, io non è che sono un integralista della bici e dico bici a tutti i costi, c'è chi non ci sa andare. Dico, chi ci sa andare, che ci vada. E in questo caso i comuni, e vediamo anche le esperienze in tutto il mondo, cioè non siamo soli, anche Milano comincia a muoversi, mettiamo le persone che sanno andare in bicicletta nelle condizioni di poterlo fare, e i mezzi ci sono. Ci sono anche queste ciclabili pop-up, leggo. Pop-up. Sì, in sostanza si tratta di realizzare una ciclabile in breve tempo laddove non c'era, e laddove non c'è magari neanche un progetto pronto, no? E comunque ci vorrebbero dei mesi per cantierarlo. Invece uno delimita qualcosa di già esistente e lo fa diventare una ciclabile. Esattamente, restringe una corsia oppure rende le preferenziali per i mezzi pubblici accessibili alle biciclette, insomma, e ci sono dei mezzi veloci, ma poi adesso si parla di incentivi all'acquisto delle biciclette, ben vengano, all'acquisto di bici anche elettriche, perché diciamo la verità, chi deve coprire delle distanze casa-lavoro un po' più consistenti di rilievo, magari ha la necessità di acquistare, e costano di più, le bici a pedalata assistita per arrivare magari non disumanato, andiamo verso la stagione calda, però questa è un'occasione che non ecco, si può perdere. Esatto, questo mi sembra. Questo mi sembra intanto un ottimo consiglio, perché immagino che tutti stiano pensando, ma adesso arriva il caldo, io devo fare 7 chilometri, se mi metto la camicia azzurra arrivo che sono completamente bagnato. Quindi già mi sembra un buon consiglio quello della bici con la pedalata assistita. Ma ci sono anche nei bike sharing le biciclette a pedalata assistita, quindi i comuni possono, con gli incentivi che adesso si stanno studiando, incrementare le flotte di biciclette a pedalata assistita, che devono essere un po' rese accessibili a tutti. Già i prezzi sono prezzi molto bassi, ma anche dal punto di vista burocratico, snellendo tutte quelle che sono le pratiche, insomma, bisogna far sì che la fase 2 diventi una fase, io dico, e titolo nel punto su Viaggi in Bici, la fase due ruote, dove è possibile. Dove è possibile, qualcuno già dice, però non si può là dove c'è la le città in salite, discese, no? Cose di questo genere. Però appunto la pedalata assistita già è un passaggio. Bravissima, nella pedalata assistita le salite non si sentono. Io appunto mi chiamano le DB, faccio un uso della bici che può fare chiunque. Dove non ce la faccio, siccome non sono allenatissima, uso la bicicletta a pedalata assistita. Adesso parliamo di mobilità nelle città, ma anche in vacanza, per andare, non so, nelle salite di montagna, ovunque si usano le mountain bike a pedalata assistita, cioè non è una novità. Per cui le salite, ci sono moltissimi comuni che non sono, io vivo a Padova e quindi sono in pianura, da questo punto di vista sono agevolata. Siamo facilitati, certo, noi di pianura. Sì, siamo facilitati, però appunto con le e-bike si va ovunque. Sicuramente bisogna, diciamo, metterci la testa, questo non è un obbligo andare in bicicletta, ma diciamo un invito a tutti coloro appunto che sono capaci, che sono fisicamente in grado, a utilizzare altri mezzi di locomozione che non siano le automobili, ecco, in sostanza questo è. Sì. E un invito ai comuni a ragionare su questo, ma a ragionare rapidamente, perché non possiamo pensare di dire in autunno ti farò avere una ciclabile, anche perché adesso appunto è il momento in cui dobbiamo rimetterci in moto, e vale la pena rimetterci in moto con nuove abitudini, prendere nuove abitudini. Assolutamente, perché se non lo faremo oggi avremo perso un'occasione, poi non lo faremo più. Questo è il momento per radicare una buona abitudine, per far salire in sella chi ancora non ci è andato, per coprire le distanze. Noi parliamo principalmente del casa lavoro, di queste distanze, anche attraverso degli incentivi, io dico, chilometrici, perché come si fa, al di là del fatto di costruire delle ciclabili, di insomma rendere sicuri i percorsi, bisogna anche incentivare. Allora molti comuni già si sono attrezzati per dare un rimborso chilometrico, lo possono fare le aziende, lo possono fare i comuni, si può creare un sistema di incentivazione, insomma ci sono tanti escamotage per far sì che sia anche remunerativo a quel punto, e ci sia una ragione in più che della propria salute, già questa dovrebbe bastare, ma insomma diciamo ci può essere anche una ragione in più per usare la bicicletta, no? Sicuramente. Qualche Infatti esempio, volevo... prego. Volevo chiedere una cosa rapidissima. Una è sulla questione del distanziamento, perché lei diceva che funziona la bicicletta. Siccome ultimamente si fa un po' di terrorismo e anche i runner, no? Si diceva basta essere in scia con quello dietro che uno potrebbe prendere. Ecco, quindi sfatiamo questo mito e capiamo che la bicicletta funziona per il distanziamento. E l'altro, se ci descrive invece queste ciclabili cosiddette pop-up, nel senso che, come stava dicendo Laura, noi siamo abituati ai comuni che dicono fra 6 mesi inizieremo a costruire una ciclabile, poi ci vuole un anno, invece stiamo parlando di soluzioni molto rapide, tipo di mettere delle fioriere e dire qua si passa solo in bicicletta, se ho capito bene. Se ci descrive queste ciclabili. Sì, beh, allora il distanziamento, è naturale in bicicletta, perché la bicicletta lo consente. Non so, vi do una così un'immagine. Uno monta in bicicletta, comincia ad andare, allarga le gambe e già incrociando le gambe dell'altro, dall'altra parte si vede che c'è almeno un metro e mezzo di distanza tra due ciclisti che pedalano. Quindi il fatto di pedalare e si è leggermente più sollevati e si crea una sicurezza maggiore rispetto alle persone che vanno a piedi. Questo è naturale e si può tranquillamente vedere, verificarlo andando in bicicletta. Bisogna vietare i tandem. Il tandem crea nello stesso distanza, bisogna evitare le hug bike, quelle dell'abbraccio, oppure i ragazzi che montano, no, sulla canna della bicicletta, romanticamente lo sto dicendo, perché in realtà non sarebbe Però se già convivono, sì, si può. Sì, certo, in queste situazioni sì. Ma dicevo, per quanto riguarda le città Abilipopat sono esattamente questo, cioè sono delle corsie che vengono create come i lavori in corso, no? Quando ci sono i lavori in corso vengono messe temporaneamente o dei supporti di plastica, o si diceva in maniera più carina, questo ci vorrà un po' più tempo, delle fioriere che possono essere agevolmente spostate, in modo tale da adeguare le carreggiate a quelle che sono le esigenze del momento, attraverso anche però una segnaletica orizzontale che si fa presto a fare, perché disegnare una bicicletta per terra, insomma, non è che ci vogliano mesi. E in molte città, ad esempio Berlino, che adesso parlare della Germania a noi non fa molta simpatia in molti casi, però lì hanno innanzitutto aperto subito i negozi per le bici e quindi hanno dato questo segnale fortissimo. Lì vanno già in bicicletta, perché sono 12 milioni quelli che vanno in bicicletta, fanno anche turismo in bicicletta, quindi lì sono già un po' più avanti, hanno anche le autostrade. Però detto questo, lì ad esempio nelle città tolgono i parcheggi delle automobili, che qui da noi dirlo cascare il mondo, rischio di essere sotterrata, esattamente, l'ho detto, ma lo fa la Germania, perché siccome anche noi nelle città non abbiamo carreggiate, sono storiche le nostre città, quindi noi abbiamo sedi stradali a volte che sono limitate anche dalla conformazione della nostra città, quindi noi possiamo fare quello che possiamo fare. Certo, no, Ludovica Casellati, abbiamo capito, io devo salutarla per forza perché c'è GR24, però ovviamente appunto ci sono molte azioni che si possono fare, e così riflettiamo sulla possibilità che tutti noi abbiamo di andare in bicicletta. A tra poco, c'è GR24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arrivano tantissimi messaggi sulla questione bicicletta e mobilità nella fase 2, segno che abbiamo centrato, no? il tema, e che le perplessità davvero sono tante, specialmente tra coloro che vivono in provincia e che poi devono spostarsi per andare a raggiungere il luogo di lavoro e si domandano: ma come faccio a fare 40 km in bicicletta tutti i giorni avanti e indietro? Tema correttissimo. Il tema è correttissimo, ovviamente i 40 chilometri probabilmente, insomma, si sta parlando di un altro tipo di mobilità, nel senso che un conto è qualcuno che deve fare 5, 6, 7, 10 chilometri all'interno della città, se uno viene da fuori città probabilmente dovrà prendere il treno con i giusti accorgimenti di distanziamento, poi a numeri ridotti. E poi magari in città ha una bicicletta, prende la bicicletta, quelle del comune a noleggio, e fa... solitamente uno che deve fare 40 km non è che fa 40 km da casa con il treno e viene portato sotto il posto di lavoro, quindi al sì, posto ti faccio macchina, notare da pendolare che devi mettere in conto 2 ore per questo spostamento, perché il treno magari è pieno e ti dicono prendi quello dopo, perché ci sono i distanziamenti, certo. Perché arrivi alla metropolitana e ti dicono prenda quella dopo, dopodiché anche i datori di lavoro dovranno così decidere se accettare un dipendente che invece delle 9 si presenta alle 11. Sono certo. tante le certamente. Questioni. No, i problemi sono tanti e le domande, le curiosità sono tante, anche quando dobbiamo magari sottoscrivere un contratto nuovo, luce e gas. Ci domandiamo: ma come faccio a essere sicuro, a sapere quanto di green c'è veramente dentro questo contratto, dentro questa fornitura? Allora, di questo tema parliamo adesso con Antoine Harel. Buongiorno. Buongiorno. Cofondatore di Selectra. Voi di cosa vi occupate? Riusciamo a spiegarlo agli ascoltatori rapidamente? Sì, ci provo. Selectra è un'azienda che aiuta gli utenti a scegliere il migliore fornitore di luce, gas e internet. Come facciamo? Prima di tutto ci occupiamo di confrontare le diverse tariffe, quindi questa è la prima parte del nostro lavoro di informazione, e inoltre ci occupiamo di seguire e di accompagnare i clienti nella gestione delle pratiche, che ogni tanto possono essere un po' difficili e un po' sì. Sicuramente. Quindi, tutto questo gratuitamente. Quindi la prima parte è gestione e così riflessione, comparazione di tariffe. La sì. Seconda parte, che cosa c'è dentro questa offerta anche? Sì, assolutamente, quindi cerchiamo di... la bolletta è sempre un oggetto un po' misterioso e quindi noi cerchiamo di dare tutta la consapevolezza possibile ai consumatori su che cosa, come scegliere la migliore offerta, e quindi tra questi fattori di scelta c'è anche l'aspetto ambientale. Come sono le offerte che riceviamo normalmente, diciamo, in Italia, mediamente? Per quel che riguarda la luce, mi sembra di capire che siano effettivamente spesso green, che quindi l'energia che riceviamo è stata prodotta in maniera da fonte rinnovabile. Per quello che riguarda il gas, invece, meno. Sì, allora, effettivamente è molto importante distinguere la luce, la situazione della luce e della situazione del gas. Per la luce, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è importante, è cresciuta molto negli ultimi anni. Infatti l'anno scorso il 36% della richiesta nazionale di energia elettrica è stata prodotta da fonti rinnovabili, prima di tutto dall'idroelettrico e poi dopo dall'eolico e dal fotovoltaico, che sono cresciuti tanto negli ultimi anni. Questo è lato produzione, però lato vendita, diciamo che non tutte le offerte propongono un'energia esclusivamente verde. Questo dipende appunto dalla scelta che si è fatta. A livello della vendita dobbiamo distinguere tra mercato tutelato e mercato libero. Il mercato tutelato vende solo energia uguale per tutti, che non è specialmente verde. Invece sul mercato libero, quello che abbiamo visto studiando le offerte è che per la luce la maggior parte delle offerte adesso sul mercato libero sono già verde di base, e quindi questo, diciamo, è un primo dato positivo che fa vedere che l'energia verde adesso è proprio molto spinta, diffusa. Sì. Mentre sul lato gas no. Ma noi possiamo influire su quanto sia green l'energia? Cioè, quello che mi chiedo, lei dice sul mercato libero, se tutti noi scegliessimo il mercato libero e andassimo verso solo produttori, non so se il 100% green, insomma più vicino all'80%, visto che la media è il 37%, effettivamente poi l'energia prodotta sarebbe più green? Allora, sicuramente se tutti i consumatori decidessero di puntare sulla sostenibilità in modo deciso e radicale, i fornitori sarebbero ancora di più incentivati a produrre energia verde. Quindi si può fare, sicuramente interessarsi alla scelta dell'offerta è un passo decisivo per arrivare a l'impronta carbonio zero che vogliamo tutti per il 2050 per tutelare il clima. Quindi c'è veramente una spinta che deve partire dal consumatore. Poi lì mi devo dire un'altra cosa, che certo la scelta dell'offerta è fondamentale, però è anche importante scegliere un fornitore impegnato che riuscirà ad accompagnare il cliente nella transizione energetica, quindi dando dei consigli su come risparmiare l'energia, dando anche degli servizi addizionali nel monitoraggio dei consumi, per proprio fare da coach dell'energia al cliente. Quindi c'è anche questa parte di scelta dell'offerta e di un fornitore che possa accompagnare, che sia impegnato per l'ambiente. Non so se volete approfondire sul gas, che effettivamente il gas verde è molto più raro, cioè la produzione di gas verde sarebbe quindi il biogas, che è un esempio perfetto di economia circolare, dove si recuperano degli scarti produttivi dell'agricoltura, delle discariche, il gas biometano, sì, e invece di rilasciarlo nell'atmosfera si valorizza trasformandolo come combustibile. Però questo accade pochissimo ancora. Sì, esatto, questo accade pochissimo, e quello che abbiamo trovato tramite il nostro studio è che le offerte verdi di gas che propongono appunto questo biogas sono pochissime e quindi però esistono, e quindi se il cliente vuole questo, cioè domanda questo tipo di servizio, è il miglior modo per diciamo dare una spinta a questa filiera che comunque sta crescendo, però al momento manca tanta consapevolezza da parte dei consumatori finali che di questo gas verde conoscono purtroppo poco. E, Sufficienza di biogas? Cioè noi potremmo usare tutti i biogas oppure comunque il biogas non è più del 10%? No, allora al momento effettivamente non è possibile coprire tutto il nostro fabbisogno con il biogas. Per questo esiste anche una seconda strada per diciamo rendere i nostri consumi di gas verdi. E, questa strada è la strada della compensazione, ossia compensare le nostre emissioni di CO2 dovute al nostro consumo di gas grazie alla certificazione, all'acquisto di crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Quindi piantare boschi, per esempio, cose di questo tipo? Sì, ci sono due, sì, o dei progetti come per esempio, che ne so, efficientare una fabbrica, e quindi questo progetto riduce le emissioni di CO2, e quindi ci sono dei crediti che certificano di questa riduzione di gas a effetto serra, o in alternativa piantare boschi. Allora, noi la... prego. L'ultima, Carlo, volevo chiedere una cosa velocissima. Sì, velocissima. Siccome ha toccato un punto fondamentale, cioè la differenza fra energia rinnovabile, quelli che creano energia con il sole, e quelli che invece compensano, ovvero la creano in maniera che inquina, però poi compensano. In bolletta c'è questa differenza? Cioè si vede quando l'energia è veramente green, cioè è prodotta green, e quando in realtà l'energia di per sé non è green ma è stata compensata? Allora, prima di tutto, già l'energia compensata in un certo senso è verde, quindi più la gente la richiede questa energia compensata, meglio è. Adesso sì, in bolletta ci sono tante informazioni. Sulla bolletta della luce, per esempio, nell'ultima pagina è possibile vedere un grafico a tortino dove ci saranno specificate tutte le fonti di energia usate per produrre l'energia venduta. Quindi ci sono queste informazioni nella bolletta, uno deve solo tuffarsi per studiarsela bene. Ok, benissimo. Allora, Antoine Arendt, ci sono un sacco di domande per lei, quindi la richiameremo, immagino, perché la questione, le curiosità sull'energia sono tante. Antoine Arendt, ricordo, di Selectra, buona giornata, buon proseguimento, abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. When the truth is found to be. E prima di passare al prossimo argomento, Carlo, io credo sia il caso di dare il secondo indizio, perché oggi siamo stati un po' troppo sibillini, si vede, e abbiamo così desiderio di darvi una mano per indovinare il personaggio della settimana. Molto giusto, è vero. Abbiamo parlato poco del nostro indovinello, del nostro quiz. Il secondo indizio è che il personaggio che stiamo cercando dimostra grande senso civico. Quindi è stato aiutato, questo era il primo indizio, ma dimostra grande senso civico. E potete chiamare per dirci chi è questo personaggio all'824 00 24. Nel frattempo, vi portate a casa dei libri, dei biglietti per la mostra, perché ovviamente i musei sono chiusi. Precisamente. Silvia Garbelli invece è la nostra prossima ospite, lei è segretario di Politics Hub, autrice di Dove punta la bussola? Coordinate economiche per un mondo che cambia. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Silvia Garbelli, quanti anni, giusto per darci un riferimento? 20 anni. 20 anni con un gruppo di altri coetanei, giusto? Esatto, esatto, più o meno tutti fine del liceo, primi anni dell'università. E vi siete imbarcati in questa avventura con Politics Hub e la scrittura di questo libro Dove punta la bussola, in cui avete intervistato personaggi complessi, insomma il tema era complesso e voi avete tirato in ballo Carlo Cottarelli, Andrea Beltratti, Federico Visconti, insomma tutti economisti, esperti di finanza, di macroeconomia, per affrontare il periodo che stiamo vivendo da diversi punti di vista, ma comunque di punti di vista complessi. Esatto, sì sì, l'idea era proprio quello di approcciarci ad una tematica che appunto non è così facile come quella economica, in realtà ad ampio spettro, quindi analizzando anche la situazione attuale ovviamente, che ci sta travolgendo in qualche modo tutti. Quindi vedere quali sono i risvolti appunto economici di questa situazione legata al coronavirus, ma in realtà approfondire anche altre tematiche economiche molto più in generale, perché giustamente come Carlo Cottarelli ha ricordato all'inizio del libro, ogni aspetto della nostra vita in fondo è costellato di tematiche economiche, è tutto correlato all'economia, dalla politica a qualunque scelta presa durante la vita, quindi è importante, diciamo così, per tutti avere delle informazioni di base, dei dati di base, per potersi muovere nel mondo. Io credo, grazie a voi, cioè la vostra capacità, ecco, di tirar fuori da questi personaggi parole semplici, il libro è molto scorrevole e tra l'altro ha anche un buon fine, no? Perché le vendite, il ricavato, sì, esatto, delle vendite viene poi destinato in beneficenza, in sostanza. Esatto, interamente ai comitati della Croce Rossa di Busto Arsizio e di Legnano, appunto perché abbiamo voluto dare attivamente un nostro contributo in questa situazione e quindi chi acquisterà il libro, insomma, sappia che interamente quello che lui utilizza per acquistarlo verrà poi appunto devoluto alla Croce Rossa. Carlo, avevi delle curiosità, forse? Senti, sentivo. Sì, sì, volevo che ci spiegassi che cos'è Politics Hub, nel senso che la curiosità è in un momento in cui si dice sempre che i giovani sono disinteressati alla politica, che la politica non interessa più nessuno, voi invece siete giovani, giovanissimi, e che cos'è Politics Hub? Certo, allora noi siamo nati negli ultimi mesi dello scorso anno, all'inizio semplicemente come un gruppo di amici, eravamo un gruppo di una decina, quindicina di ragazzi, appunto di questa fascia d'età, tutti interessati ad approfondire delle situazioni di politica, economia, riguardo alla società attuale, e abbiamo pensato che per fare questo il metodo migliore fosse quello di incontrarci con degli esperti dei vari settori che potessero darci il loro contributo, proprio perché inseriti all'interno di specifiche tematiche, specifiche situazioni. E l'idea appunto era quella di organizzare degli incontri, informarci in modo assolutamente apartitico, quindi in modo che l'esperto potesse raccontarsi oggettivamente la realtà in cui era immerso. Abbiamo realizzato alcuni incontri, poi però ci è venuto appunto il desiderio di aprire questo progetto anche a persone esterne al nostro gruppo originario, e allora abbiamo incominciato a organizzare degli incontri aperti appunto a ragazzi, perché sempre il filo rosso di tutta la nostra associazione è appunto quella di creare una proposta che sia creata da ragazzi e per ragazzi appunto, e quindi abbiamo aperto al pubblico, abbiamo avuto una risposta molto positiva, perché all'incontro sono venute dalle 100 alle 150 persone, appunto sempre ragazzi. Abbiamo fatto un incontro con Mario Mauro, che era l'ex ministro della difesa durante il governo Letta, per approfondire per esempio la situazione della Libia. Abbiamo invitato delle europarlamentari per parlarci di Europa, quindi insomma abbiamo spaziato tematiche anche molto differenti, e quello che ci ha colpito appunto è stata questa risposta positiva da parte dei ragazzi, che assolutamente non ci aspettavamo, tanti ragazzi interessati anche con domande interessanti durante gli incontri, quindi è stato davvero molto bello per noi aprirci appunto anche ad un pubblico che esulasse dai nostri amici ristretti con i quali avevamo iniziato. Certo, bene, e quindi può continuare a crescere magari anche grazie appunto ai collegamenti via Skype o via quello che sarà, no? Certo. Nei prossimi tempi. Da tutte queste interviste che avete poi raccolto nel libro, che conclusioni, diciamo, avete tratto voi, volendo un po', no? Riunire le idee? Esatto. Allora, intanto ci tenevo appunto ad approfondire il fatto che non solo si parlerà di coronavirus, si parlerà sicuramente anche di quello, ma l'idea era appunto quella di fornire al lettore, anche non esperto in economia, alcune nozioni di base. Infatti le tematiche che vengono trattate durante il libro sono davvero molto distanti una dall'altra, quindi abbiamo trattato di tematiche di macroeconomia generale, di politica economica, sui mercati finanziari. Abbiamo approfondito la situazione italiana con Carlo Cottarelli, quindi davvero ognuno credo che possa trovare all'interno del libro delle nozioni, ma non solo, perché anche dei pareri, perché appunto gli esperti che abbiamo intervistato sono persone importanti nella sfera economica attuale, quindi credo che ognuno nel suo ambito di interesse, all'interno della grande tematica economica, possa trarre un pochino quelle informazioni che più gli aggradano. Anche abbiamo approfondito appunto la realtà imprenditoriale, per esempio, oppure quella dei giovani e del mondo del lavoro, che assolutamente è una tematica che a noi sta particolarmente a cuore. E poi ultima cosa vorrei sottolineare che alla fine del libro c'è un grande capitolo che è la postfazione del libro, dove gli ospiti hanno dato un augurio ai giovani e secondo noi di Poetic Sub è interessante appunto che i giovani che acquistino il libro leggano con particolare interesse questo capitolo, perché sono state date appunto dei consigli utili ai giovani per non scoraggiarsi, per restare in Italia, arginare il fenomeno della fuga di cervelli e adoperarsi per lavorare nel proprio paese appunto e per portarlo avanti, insomma. Quindi è un po' un'opportunità anche per i giovani questa situazione, per magari emergere, dare nuovi contributi? Sicuramente, per cercare di lanciarsi nella situazione attuale e cercare di risollevarla. Sicuramente sì. Senti, ma cosa avete fatto nella giornata di ieri? Come ha festeggiato o onorato la giornata di ieri Politics Hub? Allora, noi siamo molto distanti, quindi è difficile da quel punto di vista, però abbiamo sicuramente voluto ricordare la giornata di ieri, infatti siamo molto attivi sui canali social per cercare di restare in contatto non solo tra di noi appunto ma anche con coloro che ci seguono, quindi abbiamo pubblicato un post molto banalmente per commemorare la giornata di ieri, quindi appunto per ricordare intanto ciò che è avvenuto e far vedere che siamo interessati appunto alla realtà attuale, quindi anche quella ne fa parte sicuramente. Silvia, grazie molte. Allora, segretario di Politics Hub, ricordo il titolo del libro, Dove punta la bussola, coordinate economiche per un mondo che cambia, e il ricavato, come abbiamo sentito, va in beneficenza. Buon proseguimento, buon lavoro e buoni incontri, insomma, futuri. L'abbiamo persa, Silvia. L'abbiamo persa, però abbiamo trovato Gabriella dalla provincia di Monza e Brianza, vero? Buongiorno. Buongiorno. Gabriella, lei ha chiamato per il Buongiorno. Personaggio, giusto? Sì, chiamato per il personaggio. E chi è, secondo lei, il personaggio della settimana? Per me Giuseppe Conte. E perché? Perché per me è un grande, molto senso civico, una grande persona. Ed è stato aiutato, secondo lei, da chi però? Come, scusi? Il primo indizio è stato aiutato. Ma io sinceramente ho pensato che magari sul fatto di questo coronavirus possa essere stato aiutato tramite il comitato scientifico riguardo a quella problematica. Ok. Cioè io ho pensato a questo, ecco. E non era il Premier Conte, Gabriella, però insomma abbiamo cominciato, diciamo così, a escludere magari, no? Non so se Gabriella è ancora in linea con noi. No, vabbè, va così, Carlo. Ma va benissimo, non era Conte e purtroppo non ha vinto il nostro premio. Continuate a chiamare all'800-24-00-24 per indovinare il nostro personaggio della settimana. Che è stato aiutato e dimostra un grande senso civico. Io direi che magari possiamo dare il terzo indizio, ma sì, diamolo, dai, visto che ci avviamo verso il finale della puntata. Allora, il terzo indizio è questo: vuole sanare un errore. È stato aiutato, dimostra senso civico e vuole sanare un errore. Dopodiché potete chiamare l'800-24-00-24 e dirci chi è, secondo voi, il personaggio della settimana. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con un collegamento con il Portogallo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma prima di collegarci con il Portogallo, sentiamo Claudio che ha chiamato dalla provincia di Brescia per indovinare il personaggio della settimana. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Claudio. Chi è il personaggio? Secondo me è quell'anziano inglese che ha 99 anni, è andato in giro a raccogliere i fondi per il coronavirus in Inghilterra. Però ecco, magari non è così recente dell'altra settimana, non mi ricordo. Non me lo ricordo più neanch'io, perché ormai i giorni sembrano tutti uguali, però sì, ho ben presente. Sentiamo un po' se è lui. Non era lui, però grazie per aver chiamato, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata, buona domenica. E anche grazie per aver ricordato questa storia che al momento non ricordiamo, ma sicuramente approfonderemo. Grazie. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secrets words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Ed eccoci con il collegamento con il Portogallo, dove c'è Martino Gliozzi, il dottor Martino Gliozzi. Buona giornata. Buongiorno. E grazie per aver sacrificato un po' della sua giornata di riposo per collegarsi con noi. So che insomma è domenica e oltretutto avete un fuso orario sfavorevole rispetto all'Italia. Allora, come grazie sta andando? Come sta andando? Abbiamo letto che il Portogallo sta reagendo molto bene a questa emergenza e a quanto pare proprio grazie al tipo di struttura sanitaria che c'è. Quindi le vorremmo chiedere insomma come siete organizzati. Lei è a Lisbona, sì. Scusi, ho dimenticato di dirlo. Certo, sono a Lisbona, coordino qui una casa della salute, centro della salute. Diciamo che probabilmente i fattori sono vari per cui le cose qui stanno andando meglio. In parte perché qua la pandemia è arrivata più tardi, quindi in qualche modo si conoscevano già quali erano le cure epidemiologiche, quali erano gli effetti delle varie misure, delle misure del governo, dei vari stati europei, quindi qua conosciamo già un pochino la curva epidemiologica, però in grande parte secondo me l'effetto meno severo come si è stato in Italia qua è dovuto al fatto che la struttura organizzativa del sistema sanitario fa sì che c'è un legame molto più stretto tra le cure primarie e la popolazione e esistono quindi anche guideline nazionali, non come in Italia dove abbiamo una regionalizzazione della salute, dell'organizzazione sanitaria, quindi diciamo che il fatto che ci fosse una medicina del territorio ben organizzata centralmente probabilmente aiutato e delle case della salute che fossero per tutto il territorio portoghese e e che lavorassero vicino alla. Quindi c'è una linea nazionale, diciamo molto forte evidentemente, e sì, delle unità territoriali che hanno ben recepito e hanno immediatamente trasmesso, diciamo, l'allarme e hanno fatto quello che dovevano fare. Poi ho visto che voi in particolare siete organizzati con delle, non con medici di base come noi, cioè con il medico di famiglia, ma con delle strutture un po' più ampie che hanno vari esperti all'interno. Certo, sì, qua le case della salute già da una ventina d'anni includono sia i medici di famiglia che gli infermieri, i segretari, assistenti sociali, psicologi, fisioterapisti, terapia occupazionale, quindi sono varie professionisti che lavorano nel centro. Una caratteristica che quindi penso che abbia giocato a favore è il fatto che c'è una territorializzazione, cioè ogni centro dà risposta a un rispettivo quartiere o una zona del paese, quindi diciamo che tutti i pazienti, tutte le persone che vivono in quel quartiere hanno come punto di riferimento quel centro, mentre in Italia con la libera scelta io posso scegliere il medico di famiglia dove voglio. Qua praticamente ogni casa della salute dà risposta a una zona della città. In momento della pandemia naturalmente è molto importante, perché ragionando come salute pubblica, se ogni centro dà risposta al quartiere che conosce e che è riconosciuto come tale, è molto più semplice. Poi certo che come tipo di lavoro il medico di famiglia qua è un lavoro molto più vasto, nel senso che si fa anche una pediatria di base, si fa una ginecologia, si fa l'ostetricia, si seguono tutti i diabetici, si seguono i palliativi, quindi non è come in Italia dove esistono i pediatri di libera professione o varie figure e diciamo che è ristretto di più il campo dove il medico di base in Italia lavora. Qua è un lavoro più vasto che quindi in qualche modo fa sì che sia anche più riconosciuto per la popolazione quello che stiamo facendo. E quindi anche di gruppo, lavorando di gruppo, forse si può reagire meglio in una situazione come questa. Dubbio. Noi io sono il coordinatore da 5 anni, ogni settimana facciamo 2 riunioni di 1 ora e mezza, quindi 3 ore ogni settimana di riunioni, che è un qualcosa che in Italia non esiste. Molte volte i medici di famiglia lavorano purtroppo da soli o raramente hanno dei momenti per incontrarsi. Qua, avendo riunioni d'equipe molte volte a settimana, siamo abituati a lavorare assieme, quindi anche a reagire a pandemia. Cioè, appena sono arrivate le guardie nazionali, siamo riorganizzati internamente, abbiamo avuto qualcuno a fare triage all'ingresso del centro, quindi è più semplice, sono già diciamo dinamiche più oleate, no? più non so se dice oleate in italiano, però direi sono quindi dinamiche che esistono già da tanti anni, quindi è più semplice reagire a una pandemia. Anche il legame con la salute pubblica, qua sottostando allo stesso sistema, io lavoro con la salute pubblica da molti anni, quindi in questo momento quotidianamente noi lavoriamo in contatto con la salute pubblica, medici familiari e salute pubblica. Penso che in Italia il rapporto sia meno stretto, insomma. Dunque, sì, Carlo. Ma come mai secondo lei c'è questa differenza fra Italia e Portogallo di gestione? Nel senso che, se non ricordo male, ma lei è medico quindi mi corregga se sbaglio, in Italia un tempo il medico di base era molto importante, era centrale. Probabilmente, come sta dicendo lei, in Portogallo, siccome in realtà non è che c'è un unico singolo medico di base e quindi uno di solito dice guarda quello della mia zona non è tanto bravo, allora invece da voi è un intero centro, quindi non c'è la questione della personalizzazione che uno dice non mi piace quel medico, ma io in quel centro vado per tutte le questioni, quindi non devo andare in ospedale ma vado nel centro locale vicino a casa mia, che tra l'altro, come ho letto, voi a tutti i vostri assistiti il giorno del virus avete mandato un messaggino e uno sa con chi sta parlando. Ecco, mi chiedo come mai si è arrivati a questa differenza di gestione fra Italia e Portogallo. Credo che sia una questione di modello, nel senso che non sto dicendo che i medici di famiglia italiani e portoghesi siano migliori o peggiori, è una questione di modello e qua c'è stata una riforma dagli anni 90 e poi dal 2007 in poi ancora più strutturata, dove sono state create queste case della salute. In Italia negli ultimi anni è stato il medico di famiglia probabilmente è stato relegato messo da parte, non certo, si è viene considerato un medico di serie B di solito qua in Italia. Esatto. Un burocrata si dà meno valore, e il fatto che sia non sia un funzionario pubblico, ma sia un professionista, fa sì che lo Stato veda come qualcuno che io pago per fare un servizio ai miei cittadini. Non è un funzionario dello Stato. Io qua, come medico di famiglia, ho gli stessi diritti e gli stessi doveri di un medico dell'ospedale. Questo fa sì che naturalmente la valorizzazione che lo Stato mi dà fa sì che tutte le varie conseguenze. Non so se non è molto conosciuto, ma in Italia gli specializzandi di medicina di famiglia prendono molto meno e hanno molto meno diritti che gli specializzandi degli ospedali. Quindi naturalmente se qualcuno, quando esce dall'università in Italia a 25 anni, gli dicono vuoi fare il medico in ospedale che guadagni un tot, o il medico in famiglia guadagni la metà e non puoi rimanere incinta e non puoi... e non hai settimanali, quindi naturalmente un tipo di... Direi che l'ha spiegato perfettamente, l'ha spiegato perfettamente, e questo è molto chiaro. Ci terrei anche a ricordare un'altra questione sul fatto dell'attenzione nei confronti della medicina. Lei ha 32 anni e, se non sbaglio, è il coordinatore del suo centro. In Italia penso che a 32 anni uno che ha studiato medicina, non so, forse consegna delle aspirine. Sì, no, io ora ne ho 37, purtroppo gli anni sono passati, però coordino il centro da quando ne ho 32. Ah, le chiedo scusa no, molto. Comunque 32 era l'età della designazione. A 32 l'età quando mi hanno designato, mettiamola così. Sì, sì, cioè, nel senso, appunto, non penso, l'insegnamento in Italia è molto meno pratico, quindi quando si esce io ho studiato a Bologna, quindi me lo ricordo bene, quando si esce dall'università sappiamo fare meno cose, sappiamo molto teoria, sappiamo molto, penso che si insegni bene la medicina in Italia, però è troppo teorica secondo me, e quando si esce appunto non si valorizza quindi i vari professionisti, e sì, molte volte i primi anni sono per fare scartoffi o sostituire o questioni burocratiche. Naturalmente qua dandomi un carico del genere, non so se dice carico, ma quindi un ruolo del genere a 32 anni è stato una grande scommessa per le istituzioni qua, poteva andare bene, poteva andare male, sembra che stia andando bene, però in qualche modo anche qui è raro, nel senso che non è che tutti i coordinatori abbiano la mia età. Poco alla volta, visto che diciamo che non è un impedimento essere giovani, mettiamola così, non è un impedimento. Neanche essere straniero. Esatto. Comunque la vorrei tranquillizzare, lei l'italiano lo sa ovviamente alla perfezione, quindi non ci sfuggirà, noi ovviamente vorremmo che tornasse da noi, e quindi sta direi appositamente dicendo non so se si dice così, ma non se la caverà così facilmente. No, non ce la beviamo che lei è portoghese. Allora, lei stesso viene periodicamente valutato comunque dalle persone con cui lavora, per cui il coordinatore non è per sempre il coordinatore, comunque non è che fa quello che vuole, mi sembra di capire. Esatto, sì, noi abbiamo ogni 3 anni sono delle elezioni interne nell'equipe, quindi diciamo che i coordinatori non hanno nomine politiche o di altro tipo, come può succedere in altre nazioni che non nominerò, quindi le elezioni non sono scelte politicamente centralmente, ma il coordinatore è scelto dall'equipe. Ogni 3 anni si rivota, quindi se io non sto facendo un lavoro non che per i miei superiori, ma che per quelli che lavorano con me non è adeguato, non verrò votato, quindi in qualche modo è un modo per essere sicuri che io ci sia un'approvazione anche da parte delle persone dell'equipe. Mentre purtroppo sia a livello di ospedale qua in Portogallo, ma anche in Italia, in altre nazioni, normalmente il capo reparto ha un altro tipo di ha un rapporto molto più verticistico, molto più verticale, mentre qua ha un rapporto molto più orizzontale, no? Perché così è pensato il modello. E perché appunto io sono valutato da tutti, non solo dai medici, dagli infermieri e dai segretari che lavorano. Mi sembra molto interessante, ovviamente anche lì ci saranno dei buchi, non so, nessun sistema è perfetto, però è un sistema sul quale si può ragionare sicuramente, posto che appunto qualche difetto il nostro l'ha mostrato. Martino, dottor Gliozzi, la ringraziamo molto per essere stato con noi, allora buona domenica, buon proseguimento. Niente, speriamo. speriamo che questa pandemia porti il mondo un pochino meno inquinato, meno consumista, e che magari giusto. Questa tragedia in Lombardia e in altre zone pensino anche, si pensi a riflettere su come cambiare il modello in Italia e come migliorarsi. Quindi magari molto giusto, non tutti i mali vengono giusto. magari qualcosa cambierà per il meglio, speriamo. Sono ottimista. Beh, detto da un medico detto da un medico è perfetto, è ovvio che non tutti i mali vengono per nuocere, perché anche perché senza mali voi sareste disoccupati, quindi ci mancherebbe altro. Però è molto giusto il fatto che forse questo virus farà capire che forse va gestita in un altro modo la sanità. Obrigado. Allora, abbiamo un collegamento rapido con Amrino dalla provincia Monza e Brianza che chiama per indovinare il personaggio della settimana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, chi è secondo lei buongiorno. Il personaggio della settimana? Ma secondo me è Matteo Salvini. Dunque, è stato aiutato, dimostra senso civico e vuole sanare un errore. Ci motivi un po' la scelta di Salvini? Almeno uno. Sì, che contesta la scarcerazione di certi, diciamo, detenuti con gravi motivi di carcerazione, insomma. Ok, riferimento a quello. Ma non è neanche Matteo Salvini. Grazie comunque per aver chiamato. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro pianeta, come ogni settimana, lo conferiamo a chi si impegna per l'ambiente o ha delle idee che possono far bene all'ambiente. Ebbene, esattamente questo è il caso di Stilgomma, perché a Stilgomma si è elaborata una mascherina che non è usa e getta, cioè si getta solo il filtro, ma il resto almeno si tiene e si sterilizza, e questo ovviamente avrà un minor impatto sull'ambiente. Giulia Sala è quality manager di Stilgomma, buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo di questa Bergamask, buongiorno. Nuova mascherina progettata e realizzata da 5 aziende poi della provincia di Bergamo. Che cos'ha di speciale? Buongiorno a tutti e grazie ancora per lo spazio dedicatoci. Bergamask è nata da un'idea di Stilgomma. Noi siamo un'azienda di Castelli Calezio nella provincia di Bergamo che produce dal 1977 articoli tecnici in gomma, e quindi diciamo la base tecnica e l'ufficio tecnico è sempre stato il punto forte della nostra azienda. Purtroppo durante questa emergenza Covid ci siamo ritrovati noi stessi, anche per i nostri dipendenti, ad avere molte difficoltà a reperire appunto queste tipologie di dispositivi come possono essere le mascherine, e proprio al mio titolare Marco Pecis è venuto in mente di progettare una mascherina con i materiali tecnici che avevamo già a disposizione all'interno diciamo della nostra storia, e appunto progettarle in modo da avere sempre una maschera e quindi un montante in silicone medicale autosterilizzante, antibatterico e anallergico, dentro il quale con un semplicissimo diciamo aggancio meccanico inserire il filtro a protezione sia di chi la indossa sia di chi sta intorno. E quindi ecco, è nata Bergamask, e, che che appunto, ripeto, purtroppo è nata nell'emergenza Covid, certo. Esatto, ma è nata ed è stata ideata per poter soddisfare le diverse esigenze dei vari utenti. Infatti su Bergamask si possono montare diverse tipologie di filtro che... A seconda dell'impiego che se ne deve fare? Esatto, esatto. Attualmente sono a disposizione solamente filtri generici a protezione quindi della collettività per la questione droplet, ma nelle prossime settimane saranno a disposizione filtri di svariato genere, quindi certificati per l'uso medico in ambiente ospedaliero oppure certificati per l'utilizzo con polveri con i vari gradi FFP. Che mi sembra un... Ho letto che la vostra maschera, al di là che il nome è bellissimo, Bergamask, ho visto che si può sterilizzare semplicemente mettendola nel microonde. Esatto, il materiale, il silicone che abbiamo scelto per costruire, per progettare questa maschera, è un silicone speciale in grado di autoriscaldarsi quando sollecitato dalle... appunto onde di un microonde, in particolare a 600 watt, e appunto riesce ad arrivare a una temperatura tale in autonomia diciamo alla quale tutti i batteri, i virus e impurità scompaiono, quindi appunto viene appunto sterilizzata in maniera autonoma. In ogni caso, anche chi non avesse a disposizione un microonde o fosse necessaria una sterilizzazione diciamo più di massa e quindi in autoclave, non ci sarebbero problemi, basta arrivare a una temperatura di circa 100 gradi, quindi anche forno, acqua bollente o appunto autoclavi sono comunque adatti. E quindi appunto per quello che è adatta anche all'uso per medici, insomma personale sanitario, no? Dicevo, è già in produzione questa maschera? E con, esatto, i filtri base, diciamo. Esatto. Stilgomma, grazie anche alla collaborazione delle altre quattro aziende della nostra zona, è riuscita a progettare e produrre questa maschera in sole 2 settimane e abbiamo iniziato e stiamo terminando la donazione di 10.000 maschere e 300.000 filtri agli enti impegnati in prima linea della nostra zona, quindi per le province di Bergamo e Brescia. La maschera in ogni caso è già a disposizione anche per aziende, privati o per chi ne dovesse avere bisogno ed è interessato, ma diciamo stiamo chiedendo un po' di pazienza ai privati perché appunto la donazione a noi, per noi è ancora la priorità, esatto, ma sul nostro sito stilgomma.it si potranno trovare tutti i canali grazie ai quali inoltrare la propria richiesta in modo da poter avere Bergamask nel giro di circa 2 settimane, 10 giorni. E i filtri, certo, invece ma senta, dove è si... comoda? La Scusami maschera, Laura. Questo silicone diciamo è molto morbido e anche lo spessore della maschera permette appunto alla maschera stessa di adagiarsi perfettamente su ogni viso. Inoltre la maschera completamente montata pesa solo 30 grammi e quindi ecco è molto, anche se magari ecco perché ero curioso di questo perché io già sudo con la mascherina di carta, immaginavo che una maschera in silicone che mi si appiccica un po' al corpo, pensavo di non poterla usare diciamo a lungo, invece sta dicendo che è pratica e comoda. È pratica e comoda sicuramente, diciamo non ci nascondiamo, sappiamo che una maschera in silicone, soprattutto per chi magari d'estate dovrà lavorare sotto il sole e comunque indossarla, potrebbe far sudare ovviamente a seconda degli individui, tanto che è stato anche scritto sul nostro sul foglio illustrativo che accompagna la maschera. Però ecco, Bergamask è stata ideata sia per dare una soluzione professionale tecnica a tutti gli utenti ad un basso, diciamo ad un prezzo possiamo dire basso, ma anche per appunto agevolare chi ha un bisogno quotidiano di mettere una maschera e quindi se si dovesse ricorrere all'utilizzo corretto di maschere usa e getta bisognerebbe cambiarne una ogni giorno e quindi si andrebbero, diciamo, ad utilizzare qualche euro tutti i giorni, mentre invece grazie a Bergamask... Verissimo, e soprattutto cambiare... l'inquinamento. E anche un livello, sì, infatti. Perché vorrebbe dire 7 miliardi di mascherine ogni giorno in esatto. tutto il mondo che vengono rilasciate nell'ambiente. Esatto. E invece per quel che riguarda i filtri, in conclusione, prima di salutarci, i filtri arrivano, immagino, alla prima volta con la maschera e poi siete voi che vi occupate della loro produzione oppure no? Esatto. Noi c'è la possibilità di acquistare la maschera con già all'interno 30 filtri ad un prezzo bloccato di 10 euro e quando appunto si ha bisogno solo di filtri di ricambio sono a disposizione, è a disposizione l'acquisto dei soli filtri di ricambio, pacchetti contenenti 30 filtri al costo di 5 euro con prezzo bloccato per questi generici. Allora, noi la ringraziamo Giulia, la ringraziamo, buon lavoro, ne avete tanto, ricordo Quality Manager di Stilgomma e buon proseguimento, che dire, speriamo no, tutto migliori. Esatto, grazie mille a voi per l'interessamento e per la chiacchierata. Grazie. Abbiamo, Carlo, grazie. Tanti ascoltatori che hanno chiamato per indovinare il personaggio della settimana. Abbiamo un paio di minuti, cerchiamo di sentirne il più possibile. Il primo è Dante, quindi restiamo con lui in zona Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Dante. Chi sì. è il personaggio, secondo lei? Per me è Boris Johnson, perché è recente la sua situazione, perché... è stato aiutato, difatti stava facendo una cattiva fine. Era in ospedale, finito in ospedale? In ospedale, seriamente. E poi perché ha avuto grande senso civico, nel senso che ha cambiato il suo modo di pensare iniziale. Che la lasciamo libero tutto. Però non era lui, non era lui. Le sue spiegazioni però erano effettivamente coerenti con gli indizi che noi avevamo dato, ma non è Boris Johnson. Allora, ci avviamo alla conclusione, perché davvero sono rimasti pochi secondi. Carlo, ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Il personaggio della settimana lo scoprirete su Facebook, e no? Che dici? Ah, ecco, era qua che ti volevo sapere se dovevamo dire... il nostro personaggio, ma mi sembra molto bello. Diamo appuntamento su Facebook per il nostro personaggio e poi ormai... comunque lo ridiremo sabato prossimo. Ormai abbiamo preso questo vizio, diciamo così, di mettere il personaggio della settimana su Facebook. Lo scoprirete da lì. Intanto i nostri ringraziamenti per questa puntata vanno in redazione a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari anche in assistenza. Oggi c'è Filippo Aureggi in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento di giornata e di ascolto, e da Carlo Gabardini che sei qua. E ciao anche da Carlo Gabardini. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao.